Quali sono i cinque pilastri? Sono la preghiera, cinque volte al giorno, una preghiera che comincia la mattina molto presto, appena lo spuntare dell'alba, il muezzin sale e invita i credenti alla preghiera. Io ritengo che nell'islamismo ci sia qualche cosa di provvidenziale, per esempio nel manifestare senza alcuna pudore la propria fede di islamico, cosa che non avviene nei cristiani. Peraltro, perdonate, Gesù quando dice, quando tu preghi, non presentarti in pubblico con tutte le manifestazioni esterne che stai pregando, quando digiuni non presentarti col volto ridato dalle sofferenze del digiuno, ma profumati, lavati il capo, perché la polemica di Gesù è terribilmente forte contro gli ipocriti, contro coloro che si accontentano di manifestazioni esterne. Nell'islamismo, e bisogna dirlo con tutta chiarezza, perché mi è stato riferito da alcuni così conoscenti islamici, uno dei quali mi diceva: voi cristiani avete dei problemi di coscienza che noi non abbiamo, basta obbedire e fare con gesto esterno quello che ti viene detto, tu hai affrontato tutti i tuoi doveri, non hai più alcuna così remora. Per esempio, se io chino la fronte fino a terra e recito le sure del Corano come mi viene prescritto, se poi io penso all'Inter, al Milan e ai fatti miei, la cosa non ha alcun rilievo esterno, dunque non è un problema di coscienza. È piuttosto interessante. Allora, il primo pilastro è la preghiera cinque volte al giorno, il secondo pilastro è la preghiera pubblica del venerdì, ma non è l'equivalente di una messa, perdonate, perché se non c'è locali idonei per la separazione donne e uomini e così via, le donne non sono tenute ad andare all'assemblea del venerdì, quindi è piuttosto interessante e non per questo commettono qualche colpa. Il terzo pilastro è senza dubbio la tassa dei poveri, che agli inizi era almeno il 3% dei propri guadagni. Era l'unica tassa dei credenti agli inizi, poi lo Stato diventa pesante anche per gli islamici e quindi le tasse hanno sempre avuto la circostanza di crescere, mai di calare. Quindi, il quarto pilastro è il digiuno del Ramadan. A volte noi scherziamo sul fatto che il digiuno è dalla mattina così al sorgere del sole fino alla sera. In realtà è un mese di feste familiari in cui ciascuno invita i propri parenti e amici. Certamente avviene un pasto abbondante, ma dopo il tramonto, e quindi è un mese di particolare impegno, come dire, nei confronti della propria adesione all'islamismo. Il quinto pilastro è una volta all'anno, poi è diventato una volta nella vita, il pellegrinaggio alla Mecca, perché il credente deve poter vedere coi propri occhi il luogo in cui erano contenuti gli idoli delle tribù che sono stati spazzati via da Maometto, col ritorno da Medina alla Mecca trionfante, 2 anni prima di morire peraltro, in cui insomma è avvenuto il successo completo dell'Islam, che ripeto è un profetismo armato, quindi si è imposto anche nel mondo islamico con le armi. Ecco perché nel Corano ci sono molti elementi che sono obiettivamente bellicosi e che vengono interpretati alla lettera. Il motivo che Maometto asserisce il Corano è stato concepito, è stato scritto da Dio, lo ha ricevuto il profeta e il profeta non ha fatto altro che pubblicarlo presso tutti gli uomini. Dunque non va interpretato, non essendoci una autorità islamica, noi per esempio abbiamo in mente il papato, che il Papa in qualche modo è interprete autentico della legge cristiana e che quindi obbedendo al Papa c'è una buona probabilità di non deviare, e nel mondo islamico non esiste questa autorità centrale. Le varie scuole coraniche interpretano i conflitti che possono esistere all'interno delle sure e dando la preminenza all'uno o all'altro elemento. Parlano di sure abroganti, di sure abrogate, ma le differenze all'interno dell'islamismo non sono sulla teologia, che è per tutti la stessa dei cinque pilastri, ma sulla interpretazione di certe scuole. E quindi c'è la scuola sunnita, la scuola sciita, la scuola carigita, la scuola ismailita e così via, con molte divisioni, compresa quella che è prevalente nell'Arabia Saudita, wahhabita, che è appena del secolo XVIII, in cui c'è un rigorismo che nessun altro islamico accetta. E questo per quanto riguarda la semplicità della teologia islamica, perché si è scontrata in qualche modo, e perché quando è avvenuto l'incontro col cristianesimo o scontro col cristianesimo, ecco, io credo che a questo punto potremmo dire gli islamici hanno un occhio di particolare riguardo nei confronti di quelli che chiamano i popoli del libro e che sono ebrei e cristiani, e dicono: voi avete un libro, ma quel libro lo interpretate male, perché Maometto, che è l'ultimo e il più grande dei profeti, può correggere anche i vostri libri sacri. Per esempio, tutti sanno che la Madonna è trattata molto bene nel Corano, è citata 19 volte, è chiamata madre e vergine, ma certamente viene negato alla Madonna il titolo che la Madonna ha ricevuto nel terzo concilio ecumenico, quello di Efeso, cioè madre di Dio. Cristo per l'islamico è un uomo meraviglioso, probabilmente il profeta più grande prima di Maometto, ma è soltanto un uomo. E nella visione islamica è mantenuta la posizione tipica degli ebrei, i quali dicono: Dio è colui che non si può raffigurare, è colui che è totalmente altro, è totalmente irraggiungibile, è colui che non si può definire, che non si può raffigurare. E noi sappiamo benissimo che il mondo ebraico è vissuto all'interno dei culti cananei, che erano terribilmente pesanti, che il politeismo pagano era talmente massiccio che certamente le prescrizioni del libro sacro dell'Antico Testamento erano pienamente giustificate. Ma all'interno del cristianesimo ed è il lavoro dei primi quattro concili, viene affrontato il problema cristologico e il problema trinitario. E all'interno del cristianesimo c'è una teologia un poco più complessa di quella che abbiamo tentato di definire del mondo islamico. È una teologia che prevede in Cristo, vero Dio e vero uomo, la presenza di una umanità che è una umanità perfetta, e così come c'è la perfezione della divinità. Cristo è vero Dio e vero uomo. E il rapporto tra la natura umana e la natura divina in Cristo, che è un'unica persona, non è conflittuale, non è di assorbimento dell'umanità da parte della divinità, come indicavano i monofisiti. Eutiche, che era una gran brava persona, ma che sprovveduto dal punto di vista teologico, asseriva: tra la divinità di Cristo, che è infinita, e l'umanità, c'è una tale disparità come una goccia di miele non può stemperare la salinità del mare, così l'umanità in Cristo è stata totalmente assorbita dalla divinità.